brillare, quello di appunto di percorrere lentamente un cammino che si desidera. Io gli obiettivi ce li ho chiari, ma procedo a piccoli passi, e certamente anche il controllo, che ben si combina poi con lo studio della musica e quindi tutta una declinazione che insomma che ritornava. E invece per quanto riguarda la musica, tu hai fatto il conservatorio e tu suoni, fra le altre cose, anche proprio la viola, quindi in questo non mi piace la domanda autobiografico, perché è una domanda che non faccio mai, perché chiaramente gli scrittori mettono sempre qualcosa di sé nel romanzo, ma perché hai deciso di rendere la musica non solo sfondo ma proprio protagonista? È una storia di educazione o maleducazione sentimentale, di formazione o deformazione. La mia formazione passa assolutamente dalla musica, perché io in conservatorio ho passato gli anni cruciali della mia vita, e per quanto non sia autobiografico l'aspetto sentimentale di questa storia, quindi quello più aperto, quello più dichiarato, tutto il resto, compresa una sorta di frustrazione che io credo di aver maturato nei confronti della musica, perché io nella musica non ho mai trovato la mia voce. Io di strumenti ne ho cambiati tre. Ho provato prima col pianoforte, poi io mi sono diplomata in oboe, poi sono arrivata agli archi con il violoncello, ed è andata a finire che sono dovuta approdare alla scrittura per esprimere me stesso, perlomeno per sentire che quella poteva essere la strada. Altrimenti è da quando ho 4 anni che li cambio, quindi non so cosa sia la mia vita senza musica, ma allo stesso tempo non so io che cosa sono insieme alla musica. E quindi questo è stato un po' un modo anche per riappropriarmi di qualcosa che avevo invece lasciato lì, e quindi riscriverlo e riviverlo in questo modo è stato un confronto. Il cuore inesperto, un titolo che mi ha colpito subito appena l'ho visto, anche una copertina molto molto bella. Come al solito le copertine alla radio non si possono vedere, quindi andate su radio24.it oppure cliccatela su Google. Il cuore inesperto, Francesca Scotti Elliott, è un titolo appunto molto molto bello. Sappiamo che in genere dietro i titoli c'è un grande lavoro anche da parte degli editori e così via, degli editor. Cosa rappresenta per te questa frase, il cuore inesperto? Come hai detto giustamente tu, il lavoro è stato lungo, nella misura in cui non voleva essere qualcosa che fosse eccessivamente didascalico, ma allo stesso tempo racchiudesse un'essenza, o quantomeno una chiave, fosse una chiave di lettura. Un po' della storia, ma anche un comune denominatore a tutti i personaggi. E sì, questo, hanno tutti un cuore inesperto. Hanno tutti un cuore inesperto, perché appunto poi il riferimento filosofico è di Thoreau, che diceva che appunto il cuore è sempre inesperto, mentre con il resto si può lavorare, si può apprendere, quella parte lì, la delusione, la lussuria ci prende sempre, ci fa sempre trovare, ci sorprende sempre. Questa è la storia, è una storia di cuori continuamente inesperti, ma è anche un augurio affinché il cuore possa essere sempre inesperto, perché a volte l'inesperienza permette anche di trovarsi di fronte alla meraviglia e all'incanto delle relazioni e dell'innamoramento. E allora, se volete tuffarvi in un romanzo insomma fatto di emozioni, di passione, ma anche di contrasti e di musica, il libro di oggi è Il cuore inesperto, grazie a Francesca Scotti per avercene parlato, pubblicato da Elliott. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. E ora vi parlo del romanzo Il genio dell'abbandono, l'ha scritto Wanda Marasco, pubblicato da Neri Pozza. È la biografia, più o meno liberamente tratta, adesso ce lo spiegherà lei, di uno scultore italiano che è vissuto a Napoli fra l'Ottocento e il Novecento, Vincenzo Gemito. Allora, prima domanda, così proprio botta e risposta, quanto c'è di vero e quanto c'è di romanzato in questo libro, Wanda? Di vero è l'intero fondale storico, dal 1852, anno di nascita, al 29, anno della morte. I dati storici sono tutti reali e i personaggi sono tutti reali. mentre la vita interiore di Gemito, così come l'abbozzo, lo scavo della vita interiore degli altri personaggi, è pura invenzione letteraria. La personalità di Gemito reinventata sulla base di alcuni dati, di alcuni brani estratti dal diario di Gemito, che in realtà si riduce ad una cosa esigua, però sono frammenti così intensi da poter permettere, da avermi permesso un percorso di mimesi. Ecco. Anche perché, insomma, la vita di Gemito è stata piuttosto, insomma, avventurosa, possiamo dire così. C'è una parte in cui si racconta che lui scappa, esatto, dall'ospedale, sì, esatto, psichiatrico dove si trova. Quindi una personalità, oggi forse la definiremo borderline, non so all'epoca come poteva essere definita. Insomma, tu che idea ti sei fatta della vita interiore di quest'uomo? C'è chi mi ha chiesto persino una sorta di diagnosi che la psichiatria a posteriori che la psichiatria moderna potrebbe dare. Parliamo di scissione. Scissione dovuta a un dolore della mente, e di un dolore della mente dovuto a una serie di fallimenti e di prove nella vita. Se ne potrebbero citare alcune cruciali nella vita di Gemito. La prima riguarda sicuramente un problema fisico, cerebrale, gli effetti luetici, diciamo, della malattia contratta a Parigi sul cervello. La seconda, molto molto interessante, proprio sul piano dello scavo della personalità, una sorta di autodelusione nell'arte, dovuta a due prove importanti, e non a caso una delle due nel marmo che lui odiava, e cioè la resa del Carlo V, che non era venuta come lui avrebbe voluto, e un trionfo da tavola, committenza del re, che poi venne trascurata nel tempo perché il re era occupato in altre faccende e la cosa non andava avanti. Ce n'è una terza, ammiccante, ma io non volevo essere ammiccante in questo romanzo, e avevo infiniti spunti, un'aneddotica, un folklore immenso intorno al personaggio, e ho cercato di evitarli, era la prima sfida quella, ed è la cosiddetta latente omosessualità di Gemito. Non ho trovato nella sua vita prove reali di questo gusto sessuale, altrimenti ne avrei parlato con assoluto rispetto e con tanta curiosità. Le stesse cose le avrei nutrite nei confronti di un etero convinto. Ho trovato i suoi amori. Dicono comunque, la cosa è passata così, che la latente omosessualità nel matrimonio con Nannina Cutolo, con Anna Cutolo, modella a quei tempi di vari pittori, tra l'altro del suo stesso maestro Domenico Di uno dei suoi maestri Domenico Morelli, abbia in qualche maniera scavato una crisi, perché Gemito si sarebbe reso conto di non aver dato ascolto a questa parte della sua persona. Entriamo proprio nel romanzo, anche nel linguaggio del romanzo. Leggici un brano, Wanda. Allora, innanzitutto diamo le coordinate, dove siamo in questo momento, in che parte del romanzo e che cosa sta accadendo, in modo che gli ascoltatori ci possano seguire. Siamo nel tema della povertà, in una sequenza narrativa che identifica o eguaglia il tema della povertà a quello del vuoto di Napoli e della madre. E queste tre coordinate tematiche si ritrovano in parte in questo brano, o perlomeno speriamo di averlo reso. E allora andiamo dentro il romanzo. È la prova del fuoco. Lui si vedeva crescere insieme agli altri Wayun, con tutte le variazioni del carattere e del tempo umano: debole, coraggioso, femminile, homme, candido, violento. A 10 anni andava già a lavorare, saizava, chiudeva porta, e sempre si lasciava la madre alle spalle, con la sensazione che a essa restava da allattare un altro Vicenzo, rimasto a casa a fare il fantasimo del figlio. Al ritorno dalla fatica era quasi sera. La poteva trovare muta, incazzata, che sbatteva Tiana dopo una discussione. Quando ripigliava a parlare, la madre diceva «magna», ma senza tono materno. Cumannava o implorava, lasciando qualche cosa di sospeso a ogni allucco, qualcosa che il figlio, per necessità tragica, doveva assolutamente compiere. Lasciato questo pericolo nell'aria, seieva a cucca. Allora il figlio, coricato sul supigno, cominciava a spremere brutte fantasie. Essa si è riuta a cucca per vendetta. Non teneva infatti aria dolente e embriaca come il ritratto dell'assunta a Capoliette. Stava nel letto che era tomba. Si è riuta a cucca il set per congedarsi dalla vita. Camisa, cuffia, uocchio con fondo paludoso, murmurio lagnoso che serviva a far morire pure lui. Quando s'era spogliata, aveva posato scialle e panne in Capoliette. A mezzanotte suonavano i campane di Piazza Mercatello e del Duomo. Don, don. E che succedeva? Uscì la Capoliette. Steve si o no, ad vant'anna cosa, isterica e alata. In quello stesso momento lui lo avrebbe giurato, dalle altre case cessavano fino al cielo gli stessi effetti di terrore amoroso. Vincenzo li sentiva, uno per uno, concisi nel corpo della madre. Stavano lì, da secoli. Non è un caso che io abbia chiesto a Wanda Marasco di leggere proprio lei stessa un brano, perché lei è donna di teatro, quindi chi meglio di lei, insomma, poteva anche interpretare questo brano del romanzo. L'avete sentito? C'è molto napoletano, c'è molta Napoli in questo romanzo. Ci sono le atmosfere, c'è anche la lingua che tu, Wanda, hai voluto proprio inserire nel romanzo. Insomma, è stata una scelta precisa. Sì, fatemi prima dire una cosa banale per rassicurare anche il lettore, che il napoletano c'è, ma lo capiamo tutti, insomma, è presente fortemente nella prima parte del romanzo. Poi, da quando Gemito va a Parigi, non c'era più la necessità di usarlo, no, così frequentemente, quindi c'è una bella caduta e rimane solo come coloritura la lingua. Tante volte ho ripetuto che la lingua è il primo personaggio di questo romanzo, proprio perché corrisponde ad una necessità. Se Vincenzo avesse parlato la lingua dei suoi tempi, sarei stata costretta ad adoperare una lingua vivianea, del tutto incomprensibile oggi. E allora ho scelto di aspettare il tempo di sedimentazione dopo Salvatore Di Giacomo, Edoardo, me stessa, quello che conoscevo del napoletano, della sintassi di Domenico Rea, finché non è nata questa lingua che, mentre è compatta, unificata, dipende comunque da due piani narrativi, che sono due piani della letteratura. Il primo è il corpo terragno e musicale, sinfonico di Vincenzo, e l'altro è il compito del narratore che dalla materia va all'astrazione e cerca di parlare e di rispondere per tutti. E questo mi è piaciuto davvero farlo, davvero, come andare da una dimensione letteraria all'altra, che convivevano all'unisono, ecco. La vita di Gemito, dicevamo all'inizio, è una vita avventurosa, ha una personalità, insomma, molto forte, anche disturbata, in parte l'abbiamo detto. Cos'è che della sua vita proprio ti ha colpito di più? Perché è un libro, è un romanzo che ovviamente nasce da tanta ricerca storica. Abbiamo prima fatto il riferimento ai diari di Gemito, ma anche ovviamente a libri che parlavano del contesto storico di quel periodo. Sì, ai libri che parlavano del contesto storico e ai libri degli amici, pittori, scultori, mecenati, ed è stato un viaggio interessantissimo. Ma accanto a questo, permettetemi di dire un'altra cosa. Tu mi parlavi di un disagio sentito dalla creatura Vincenzo. Come può essere sereno ed armonico un bambino cresciuto sui vichi nel lavoro nero, sfruttato dall'età di 9 anni? Ma questo non per fare il quadro patetico, era una realtà che dura anche oggi in molte città del sud del mondo, e non solo del sud del mondo, come stanno le cose ora nel globale. Naturalmente questo mi ha preso, mi ha commosso, ma nel senso dell'etimo, mi ha dato un'energia a muovermi per la narrazione, perché comprendevo non solo dalla realtà e dalla grande biografia di questo personaggio Gemito, che a 9 anni combatte nei vichi, conosce la violenza, conosce no, il corpo a corpo, e vince quasi sempre. Vince quasi sempre perché ha un'energia leonina che non so da che cosa gli deriva. Alberto Savinio dice gli deriva anche questa da una vita anteriore di scugnizzo greco, oltre che di artigiano greco. Vedere e constatare anche nella realtà la ripetizione di questo disagio, di questo dolore di vita, per cui Gemito è il bambino malinconico e violento sulle strade di Napoli, e per me era una prova ulteriore, no? Delle ingiustizie storiche che si ripetono drammaticamente nella storia di tutti i tempi. Questo romanzo sarà uno dei candidati al premio Strega. Quest'anno sono cambiate anche le regole, quindi ci sono più spazi, più possibilità anche per le piccole e medie case editrici. Secondo te, Wanda, che cosa può dare un premio come lo Strega, o comunque la candidatura allo Strega, ad un romanzo come il tuo? Beh, intanto visibilità e i corridoi giusti perché la curiosità del lettore si moltiplichi e vada a comprarlo e vada ad acquistarlo. Grazie a Wanda Marasco, ora in libreria con Il genio dell'abbandono, pubblicato da Neri Pozza. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutte le puntate su podcast, mi trovate anche su Twitter. Grazie in regia Roberta Frisani, una buona lettura da Alessandra Tedesco.